Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia, i temi di questa giornata economico-finanziaria. Sorrido perché siamo stati facili profeti nel dire che dopo l'entusiasmo iniziale per Macron, sicuramente giustificato dall'alternativa, per molti peggiore, per altri invece da preferirsi, della Le Pen, c'era stato un entusiasmo che lentamente sta scemando sul doppio fronte, parlo dell'entusiasmo italiano, del doppio fronte della politica estera, perché quello che ha fatto Macron portando le due fazioni libiche a trovare un accordo è stato visto anche come un superamento a destra delle trattative che stava facendo l'Italia nel frattempo, e vabbè, si sono mossi con un diverso peso anche alla luce del fatto che la vicenda libica e i flussi migratori vedono nella Francia uno dei paesi con le maggiori responsabilità, non tanto di Macron ma quanto di Sarkozy. Ovviamente fu lui a iniziare la guerra, i bombardamenti in Libia, e con tutto quello che ne è conseguito per l'Italia. Macron era già sceso, diciamo, nel consenso per via della posizione molto intransigente sul fronte dei flussi migratori, distinguendo sempre tra migranti economici, migranti invece politici, e nel non voler aprire, diciamo così, la frontiera di Ventimiglia. E oggi poi c'era stata una lì devo dire meno rilevante il ruolo del presidente, mi riferisco alla sospensione, alla pausa di riflessione sui lavori della Lione-Torino, laddove però abbiamo spiegato che riguarda soprattutto gli allacciamenti, non solo il tunnel, ma diciamo l'allacciamento con il resto della rete infrastrutturale francese. Oggi abbiamo la conferma che chi ha festeggiato per l'arrivo di Macron non ha capito che Macron, dal suo punto di vista, fa solo ed esclusivamente gli interessi della Francia, e li fa in maniera molto francese, compiendo operazioni che, lo dico col massimo rispetto, se l'avesse fatto un italiano, un premier italiano, avremmo subito ricevuto la critica: ecco, non sapete restare i patti. E mi riferisco alla vicenda ormai che va avanti da mesi, dell'operazione Fincantieri sui cantieri francesi STX e Saint-Nazaire, una vicenda che, a mio avviso, ma non perché siamo italiani, ha dell'allucinante, nel senso che c'è un gruppo che sono i cantieri francesi, molto importante, perché non hanno le dimensioni di Fincantieri, ci mancherebbe, ma hanno che Fincantieri è uno dei più grandi costruttori cantieristici al mondo, e ha 20 cantieri in 4 continenti, ricavi per 4 miliardi e 400 milioni e 4 miliardi e 300 milioni di ordini di navi. C'è, dicevo, un altro gruppo che ha un fatturato di poco meno di un miliardo, quindi vale un quarto di Fincantieri, sono appunto i cantieri francesi di STX France a Saint-Nazaire, molto importanti perché lì c'è un bacino di carenaggio lungo quasi un chilometro dove costruire mega navi da crociera. Erano di proprietà al 66% dei coreani, dei sudcoreani, l'altro era in mano allo Stato francese. Con la presidenza Hollande si raggiunge un accordo in cui Fincantieri lancia la sua offerta, lo Stato francese chiede garanzie sull'occupazione, si inizia una trattativa, l'offerta viene poi bloccata, poi si arriva a una ratifica sostanzialmente, e l'accordo raggiunto con Hollande per l'assetto societario della stessa STX prevedeva una maggioranza assoluta in mani italiane, tra Fincantieri, Fondazione CR Trieste, che era subentrata, viene rimesso in discussione da Macron. Allora, è già lì, è interessante, cioè sono due stati europei dell'area euro, e quindi non possiamo parlare Francia e Italia, con tutte le operazioni che ha fatto la Francia sull'Italia, pensiamo solo a cosa ha fatto Bolloré con Vivendi, tra Telecom Italia, non mi dite che la telefonia non è strategica, e l'operazione ostile su Mediaset, ma ci sono state tantissime altre operazioni che abbiamo anche elogiato perché hanno valorizzato i gruppi, penso al mondo della moda e non solo, e per non parlare della Clalys Parmalat, lì invece meno chiara la valorizzazione di Parmalat da parte di Lactalis, per essere buoni, ma comunque rimette in discussione tutto Macron, si rivale trattative, E ieri il ministro dell'economia Bruno Le Maire ha detto aspettiamo la risposta del governo italiano sulla proposta di un azionariato diviso a metà fra Italia e Francia. Quindi si è passati dal 66,6% che Fincantieri ha acquisito dal tribunale di Seul, che era in mano ai sudcoreani, non si capisce perché i sudcoreani sì e invece gli italiani no, a una richiesta del 50,50%. Ha risposto bene, devo dire, il Ministero dell'Economia e Finanza, ricordando oggi l'ampia disponibilità a modificare gli accordi già raggiunti, già firmati da Hollande, non da uno che passava per caso, e i due requisiti irrinunciabili per una nuova intesa, che in mani italiane deve restare la maggioranza. Cioè, noi non andiamo a mettere tutti questi soldi per contare al 50% con lo Stato francese, ma non lo farebbe nessuno, non lo farebbe neanche lo Stato francese se dovesse entrare in un'azienda italiana e avere lo Stato, scusatemi, un privato francese, se dovesse entrare in un'azienda italiana e pesare al 50% con metà dei consiglieri in mano allo Stato italiano. E quindi in mano italiana deve restare la maggioranza e il voto decisivo nel CDA in caso di stallo, ossia per governare il gruppo nel consiglio di amministrazione il voto decisivo deve restare italiano. Requisiti che però i francesi non hanno voluto accettare, e mancano pochi giorni alla scadenza del 29 luglio, il termine ultimo per il governo francese, che appunto ha il 33%, per esercitare il diritto di prelazione sul 66%. È una partita tutta politica. Faccio notare, noi abbiamo criticato molte volte la Germania, faccio notare, mi scrive un ascoltatore, il solito piagnisteo. No, non è un piagnisteo, si tratta di avere uguale dignità e uguali diritti in questa Europa. Va bene? Allora, se tu hai firmato un accordo con il presidente francese, anche se si chiamava Hollande, vai a rompere un accordo firmato ai massimi vertici, chiedendo di rinegoziarlo, garanzie sull'occupazione e quant'altro. In realtà, sti cantieri non è che andassero bene, fossero in mano ai francesi, erano in mano ai sudcoreani che li volevano vendere la quota dei due terzi. Arriva Fincantieri che promette investimenti e quant'altro, anche perché Fincantieri è uno dei primi gruppi al mondo in tutte le tipologie, navi militari, offshore, traghetti, mega yacht, e anche è l'unico al mondo che realizza tutte le tipologie di mezzi navali e anche appunto navi da crociera, e il bacino di Saint-Nazaire è un bacino di carenaggio che permette di costruire le mega navi da crociera, nello specifico può costruire navi fino a 220.000 tonnellate, a Monfalcone il limite di 180.000. È allucinante, a mio avviso, non la trattativa, ma il fatto che venga riaperta una trattativa dopo che tutto era stato firmato. Non è il modo in cui un gruppo come Fincantieri, ma come nessun gruppo europeo al mondo, può procedere. Non ho nessun rapporto con Fincantieri, visto che alcuni lo scrivono, non conosco personalmente l'amministratore delegato, l'ho visto una volta, Bono. È un problema di principio, se vogliamo ogni tanto farci rispettare, se no continuiamo a dire che Macron è bello, è figo, è fotomodello, va benissimo, ma quello che sta facendo è un'operazione di sciovinismo puro, in spregio alle regole più elementari tra paesi dell'Unione Europea, e non entro sul tema invece dei migranti. 349-238-6666 per sms e whatsapp. Bene ha fatto anche il ministro Calenda a essere molto duro, poi racconteremo anche i toni del ministro Calenda, dicendo insomma che la vicenda era stata già chiusa, uno la può riaprire per alcuni dettagli, ma non può rimettere in discussione il fatto che chi mette i soldi debba poter controllare questa azienda, anche in consiglio di amministrazione. E ne parleremo a lungo, sia sul fronte, diciamo, della cronaca, ma anche per capire quale sia l'atteggiamento di Macron in generale. Poi parleremo, vista la giornata, chiaramente anche del rapporto sullo scenario economico italiano presentato oggi dalla Confcommercio. In realtà si concentra soprattutto sull'economia sommersa, ma sarà anche l'occasione per stima in 43 miliardi e l'evasione recuperabile, 13% del PIL dal fisco. Dicevo, parleremo anche di questo perché sarà anche l'occasione per fare il punto su altri dati di carattere economico. E poi, come sempre, c'è anche un rapporto Istat sul rischio povertà nel paese. Come sempre anche la borsa, che procede in crescita dello 0,40%. È chiaro che su questo abbiamo anche ripercussioni per quello che ha a che fare con la cronaca, e poi ne parleremo, ma segnalo che tra i titoli va molto bene Ferrari più 3,70 e Steam Microelectronics più 1,80 come Campari, e A2A l'1,5 guadagna Prismian, l'1,30 Jux e Saipem. Il fronte opposto invece è rappresentato da Biper Bank meno 1,50, Leonardo meno 1,1, Unicredit meno 0,50%. Le altre borse sono assolutamente in linea con Milano, o Milano in linea con le altre borse: più 0,50% Parigi, più 0,40% Francoforte, più 0,24% Londra. Il Dow Jones guadagna mezzo punto percentuale. Oggi però è anche una data importante per chi se lo ricorda, anzi vorrei partire da qua prima delle notizie in breve, e poi ne parleremo nella seconda ora del programma, perché il tempo vola, si dice, e vola realmente. Sono passati 5 anni da quando Mario Draghi, e quindi eravamo a luglio del 2012, in piena crisi di tenuta dell'euro, in pieno attacco speculativo nei confronti dell'euro, causato, oggi mi faccio amica sia Francia che Germania, causato dall'atteggiamento tedesco, quando la Merkel ad aprile del 2012 si mise a dire: non è detto che tutti gli stati debbano per forza stare nell'euro, e iniziò la speculazione con lo spread che schizzò a 1200-1400 punti della Grecia. Poi il mercato, grazie a questa frase lungimirante di Angela Merkel, disse: beh, se non ci può stare la Grecia, magari non ci sta neanche il Portogallo, e iniziò a schizzare lo spread del Portogallo, e poi si fece lo stesso ragionamento sulla Spagna, e poi si arrivò al pesce grande e si disse: beh, forse anche l'Italia non riuscirà a reggere, se questa è la logica. Vediamo di iniziare, come con la logica dei birilli, a buttarne giù uno per volta con lauti guadagni della speculazione. La Germania fece un tentativo di retromarcia dicendo: attenzione, c'era Schäuble che faceva il poliziotto cattivo, Angela Merkel che invece diceva: no, non abbiamo mai detto, faremo il possibile per tenere la Grecia, ma ormai la frittata era fatta, e si era diffusa l'idea tra gli investitori speculatori che dovevano lavorare, come fanno anche adesso, con tassi a zero, e quindi è difficile guadagnare quando i tassi sono a zero, che il miglior modo per guadagnare rapidamente soldi fosse speculare contro l'euro. Perché lo dico? Perché 5 anni fa esatti, dopo mesi, che qualcuno di voi ricorderà, sull'otto volante dello spread delle speculazioni sulla tenuta dell'euro, con appunto una Germania che cercava di mettere una toppa, ma delle volte era peggio del buco, arriva Mario Draghi e pronuncia queste parole con la famosa frase: within our mandate, the ECB is ready to do whatever it takes to preserve the euro. And believe me, it will be enough. Ne parleremo, perché forse nemmeno Draghi si rese conto di quanto poi i mercati pesarono il whatever it takes, cioè tutto il necessario, tutto quello che serve per salvare l'euro, e believe me, credetemi, sarà sufficiente. Faccio solo notare che lo spread italiano quel giorno, 5 anni fa, era a 520 punti, il differenziale tra quanto rende il nostro BTP a 10 anni e quanto rende il Bund a 10 anni. Terminò la giornata a 470, cioè perse, fortunatamente, si ridusse di 50 punti in una giornata, e continuò così, e adesso sappiamo dove siamo arrivati, con i BTP che hanno un differenziale con il Bund di 156 punti, tassi di interesse sotto zero in Germania, ma anche per molti titoli di Stato italiani. È whatever it takes che è diventata la frase. In realtà lui si riferiva soprattutto ai paesi più deboli dell'Unione Monetaria, ma disse in maniera molto chiara, assumendosi una grande responsabilità, diventando a mio avviso l'unico statista in un'Europa fatta di nani o miopi, a partire dalla Germania in quel periodo, e non solo in quel periodo, fu l'unico che ebbe il coraggio di dire: attenzione, noi l'euro lo salveremo. Quindi chi va a speculare in questo momento posizionandosi lungo, immaginando che lo spread schizzerà e ci sarà la catastrofe, sbaglia, e se la vedrà con la Banca Centrale Europea. A quel punto gli speculatori capirono che andare contro una banca centrale è un po' difficile. Ecco perché lo definimmo a quel punto Santo Draghi. E uno mi scrive: immenso Marione. Sì, certo, immenso mare, non ho questa confidenza con Draghi, però siamo immenso marione, va bene. Allora, 349-238-6666 per sms e whatsapp, la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24 e poi la diretta video sia sul sito della radio che su Facebook. Andiamo con le notizie in breve. Sapete già, insomma, che il Senato americano ha votato a favore all'apertura del dibattito sulla riforma sanitaria, ha bocciato il piano dei repubblicani per abrogare e sostituire l'Obamacare. E quindi la proposta di legge era il frutto del lavoro degli ultimi mesi, ma era chiaro già ormai da giorni che non avrebbe avuto i voti necessari. Continuano intanto le trimestrali negli Stati Uniti. Alphabet, la holding a cui fa capo Google, ha chiuso il secondo trimestre sopra le attese, sostanzialmente ha svalutato 2,7 miliardi in bilancio per far fronte alla maxi multa imposta dall'Unione Europea. L'utile netto è calato del 27% a 3,52 miliardi, però l'utile per azione è a 5 dollari sopra i 4,45 dollari. I 3 miliardi 52 e 520 milioni rispetto ai 4 miliardi 880 milioni sono imputabili soprattutto appunto all'accantonamento per la multa europea. Oggi trimestrali anche di AT&T sopra le attese. Il secondo trimestre 2017 va avanti con un sostanzialmente profitto di 3,9 miliardi di dollari in aumento, e va avanti AT&T con l'operazione Time Warner, punta a chiudere l'operazione che vale 84 miliardi di dollari per acquistare Time Warner, dicevo, punta a chiuderla entro fine anno. Ford vede salire l'utile del 3,7%, sale il fatturato anche nel secondo trimestre, quindi sono un insieme di trimestrali buone, per ora quelle che stanno uscendo dagli Stati Uniti. Gli utili netti attribuibili a Ford valgono 2 miliardi e 42 milioni di dollari. Gran Bretagna, si conferma la fase di rallentamento dell'economia britannica. Il PIL diffuso oggi è cresciuto dello 0,3% nel secondo trimestre dopo lo 0,2% del primo trimestre, in linea con le attese, ma ripeto, se teniamo conto del fatto che la Gran Bretagna aveva chiuso il 2016 con un più 0,7%, c'è un rallentamento non drammatico, ma c'è un rallentamento in atto, tant'è che l'Istat britannico, l'ONS, ha rilevato che l'economia britannica sta evidenziando un considerevole rallentamento nella prima parte di quest'anno. Piaccia o non piaccia, il rallentamento dell'economia britannica ha un unico motivo, un motivo principale, perché tutti gli altri paesi hanno visto il PIL, hanno visto revisioni a rialzo del PIL, l'area euro non solo, e si chiama Brexit, si chiama incertezza sulla Brexit, costi della Brexit e quant'altro, e anche, come fecero notare alcuni osservatori, il fatto che in Gran Bretagna ormai la maggior parte delle energie della classe politica, del governo, del dibattito sono tutte concentrate su come gestire questa Brexit e meno resto, e poi l'incertezza, quella che fa il resto. Andiamo avanti con l'Italia invece. Oggi, a proposito di titoli di Stato, assegnati 1 miliardo 250 milioni di BTP indicizzati e 2 miliardi di CTZ, tutti collocati. Il rendimento è leggermente in crescita all'1,24% contro l'1,21%. Buona la domanda per i BTP, una volta e mezzo l'offerta, appunto, assegnati anche 2 miliardi di CTZ con una richiesta di 3 miliardi e 2, e il rendimento, la scadenza è 20 maggio 2019, resta negativo del meno 0,16%. Il Presidente del Consiglio Gentiloni, parlando alla 12ª conferenza degli ambasciatori, ha detto che la crescita in atto ci rassicura, il Paese è tornato a crescere rispetto alle previsioni degli organismi internazionali, è il Paese dove c'è stato il maggior scarto tra previsione e realtà. Allora, prima di ricevere i messaggi, ha ragione il Premier, perché la nostra revisione dallo 0,9 all'1,3, dallo 0,8 all'1,3% di crescita è come aumento, come scarto la più alta. Poi va aggiunto che noi restiamo sotto la media di crescita dei paesi dell'area euro, che è all'1,7-1,8%, noi siamo ancora anche con la revisione all'1,3%, ma è vero che è stata la revisione più forte come decimali tra quelle effettuate da tutti gli organismi internazionali. Nel momento in cui finalmente i dati della ripresa economica sono dati più incoraggianti, io che a questi dati ho sempre guardato e guardo tuttora con grande prudenza, perché so benissimo che un dato sulla crescita non si traduce immediatamente in un cambiamento della condizione di chi lavora, delle famiglie, del credito alle imprese, del nostro sistema. Ci vogliono anni di crescita per ribaltare una situazione difficile come quella che ha attraversato l'Italia alcuni anni fa, però dico che con orgoglio il fatto che il Paese è tornato a crescere, che addirittura qualcuno ha scritto che io dico che l'Italia cresce più o più velocemente di altri paesi. Io ho detto una cosa molto più semplice e banale, e cioè che rispetto alle previsioni dei grandi organismi internazionali, il paese in cui c'è stato maggior scarto tra le previsioni e la realtà è l'Italia. È ancora lontana da produrre le conseguenze sociali che noi cerchiamo, ma ci rassicura e consente a chi fa il vostro lavoro di rassicurare i nostri amici, gli investitori internazionali. E gli investitori internazionali in questo momento hanno fiducia innanzitutto nell'Eurozona, che considerano una delle zone più stabili tra le zone in crescita del pianeta, e dentro l'Eurozona anche nell'Italia. Allora, questo, il fatto che in lo scarto, la revisione per l'Italia sia stata la più alta come revisione tra quelle effettuate sulle varie economie dell'area euro, non deve in qualche modo inficiare la prossima notizia che stiamo per dare, perché l'Istat oggi, con dei dati un po' vecchiotti, perché purtroppo sono del 2015, fotografa la situazione della povertà. Nel 2015 un residente su 5 è a rischio povertà, era il 20% praticamente, era a rischio povertà, tra l'altro l'essere residente nel mezzogiorno espone a un rischio maggiore. La maglia nera va alla Sicilia, con più di metà della popolazione che vive in famiglia a rischio povertà o esclusione. Viceversa, i valori più contenuti, intorno al 15%, si rilevano nella provincia autonoma di Bolzano. L'indagine europea sui redditi e le condizioni di vita permette di tracciare un quadro delle principali differenze a livello regionale in termini di disuguaglianza dei redditi. Un primo indicatore che misura in maniera sintetica la distanza tra i redditi è il rapporto tra il reddito totale percepito dal 20% più ricco della popolazione e quello del 20% più povero, che nel 2015 è stato pari in Italia a quasi 6. Le regioni dove si registrano differenze più elevate sono la Sicilia, dove il quinto più ricco ha un reddito superiore di oltre 8 volte rispetto a quello più povero, che oltre alle difficoltà reddituali delle famiglie tiene anche conto della bassa intensità lavorativa e della deprivazione materiale, ossia dell'impossibilità di sostenere gran parte delle spese per determinati beni e servizi. L'indicatore mostra come l'essere residente al mezzogiorno esponga un rischio maggiore lungo tutte le dimensioni della vulnerabilità. In Sicilia più della metà della popolazione vive in famiglie a rischio di povertà o esclusione e in Puglia e Campania si supera il 45%. Viceversa, valori più contenuti, intorno al 15%, si rilevano nella provincia autonoma di Bolzano, in Friuli Venezia Giulia e in Emilia Romagna. Adesso parliamo del primo tema, e si aggancia a questo perché è il rapporto della Confcommercio sull'economia sommersa. Lo dico nel ringraziare il direttore del Centro Studi di Confcommercio, Mariano Bella, buonasera. Buonasera. Però volevo ancora agganciarmi all'intervento oggi, all'audizione alla Camera del Presidente dell'Istat, Giorgio Alleva, perché anche dato, i dati sono sempre del 2015, però ha fatto una ricognizione su quanto valga il PIL pro capite al sud rispetto al PIL pro capite del resto del paese, o meglio ha diviso il PIL pro capite, cioè prendi il PIL delle singole aree geografiche, lo dividi per il numero di abitanti, di residenti, PIL pro capite delle regioni del nord-ovest rispetto al mezzogiorno e al resto del paese. Vi dico già il dato sintetico: il PIL pro capite delle regioni del nord-ovest registra un valore quasi doppio rispetto a quello delle regioni del mezzogiorno. Praticamente nel nord-ovest ogni residente sviluppa 33.400 euro di PIL contro i 17.800 euro del mezzogiorno. La regione con il PIL pro capite più alto è la provincia di Bolzano, oltre 40.000 euro, 41.100. La più svantaggiata è la Calabria con 16.000 euro di PIL pro capite. In termini di PIL pro capite, misura che sintetizza la capacità di ciascun territorio di produrre reddito per unità di popolazione, i dati disponibili sui conti delle regioni italiane relativi al 2015 indicano per le regioni del nord-ovest un valore quasi doppio rispetto a quello delle regioni del mezzogiorno, 33.400 euro contro 17.800. I differenziali risultano ancora più ampi se si prendono in considerazione le singole regioni, sebbene la linea di divisione tra il meridione e le restanti aree del centro-nord costituisca comunque il fattore distintivo più importante. La regione con il PIL pro capite più elevato è la provincia autonoma di Bolzano, con oltre 40.000 euro, valore pari a oltre una volta e mezzo la media nazionale di 27.000 euro per abitante. Segue la Lombardia con quasi 36.000 euro. Le regioni del centro presentano un PIL per abitante piuttosto differenziato, con valori compresi tra un massimo di 31.000 euro per il Lazio e un minimo di circa 24.000 euro per l'Umbria. Il PIL pro capite nella ripartizione a mezzogiorno risulta inferiore circa un terzo rispetto a quello medio italiano. Il livello più alto si registra in Abruzzo con 24.200 euro. Per le altre regioni il livello è compreso tra i 19.500 euro della Basilicata e i 16.500 della Calabria, la quale risulta essere la regione con la situazione più sfavorevole. Allora, direttore Mariano Bella, le chiedo ancora un minuto di pazienza, abbiamo meteo e pubblicità e poi invece cerchiamo di capire come voi stimate che siano recuperabili 43 miliardi di evasione. Tra l'altro la Calabria qui al picco negativo, dove l'evasione è il 21% del PIL, quindi produce poco PIL e il 21% viene anche evaso, scusatemi la battuta ma è così. Il tasso di evasione nostro voi lo stimate al 13% dell'intero PIL, ci spiega come ritenete che sia possibile recuperare questa evasione, che è un po' una chimera ogni volta che vediamo la legge di stabilità. Dopo il meteo e la pubblicità mi scrive un ascoltatore: lei è fazioso, ha fatto uno spot a favore dell'euro. Fatto uno spot a favore di Mario Draghi, che ha salvato anche i suoi risparmi, i miei e tutto il resto, e abbassato i tassi di interesse. L'euro, lei la pensi come vuole, si prenda il Sardex, il, come si chiama, tutte queste valute, il T-Rex. Sì, certo che io ritengo che l'euro ci stia ancora salvando, no, non questa gestione dell'Europa. Comunque, meteo. Focus Economia. Allora, direttore Bella, cosa vuol dire che sono recuperabili 43 miliardi di evasione se tutta l'Italia si adeguasse alle condizioni delle regioni più virtuose come Trentino ed Emilia-Romagna? Perfetto, che significherebbe che accorciare l'Italia, però mi scusi, con massimo rispetto. Certamente è un cambio culturale, però faccio un piccolo passo indietro. L'analisi è fatta così: da cosa dipende la variabilità dei tassi di evasione fiscale nelle regioni, ma uno potrebbe dire anche tra paesi. Ora per adesso pensiamo alle regioni. Noi rifiutiamo l'ipotesi, diciamo, antropologico-criminale, per cui i calabresi sono più criminali dei trentini. E quindi ci domandiamo da che cosa dipende il tasso di evasione. Dipende, a nostro avviso, dall'efficienza del sistema delle sanzioni e dei controlli. E questo sistema funziona peggio al sud. Dipende dall'indice del senso civico economico dei singoli contribuenti, anzi dei cittadini in generale, il quale senso civico economico dipende dalla percezione dell'output pubblico, cioè dai servizi pubblici che ci vengono dati. Se in Lazio, in Campania, in Calabria abbiamo i servizi pubblici peggiori, è chiaro che essendo la fiscalità una relazione bilaterale, cioè tra controparti, se una controparte si comporta male, l'altra reagirà. Sì, però questa non è una giustificazione per l'evasione, per l'amor di Dio, non è una giustificazione, però è un tentativo di riportare a una logica, diciamo, razionale il comportamento delle persone anche senza perché, fare sogni. No, anche perché, Bella, io capisco quello che le dice, però... Anche al centro-nord ci sono strutture sanitarie o mezzi pubblici che non funzionano bene. Ma non è che uno, quando va in una struttura sanitaria, dice: ah, ma il mio ospedale non funziona, quindi posso evadere. No. Cioè, nel senso, o mi sento più legittimato a non contribuire al bene pubblico perché l'ospedale che ho in provincia di Padova, in provincia di Arezzo, no, va, dico a caso, non conosco gli ospedali di Arezzo, di Padova. Non funziona, uno si lamenta perché l'ospedale non funziona, fa degli esposti, fa quello che vuole e paga nel frattempo le tasse, perché sennò il paese diventa veramente lungo. E quello che le dice mi fa ulteriormente arrabbiare, perché è anche il problema della qualità dei controlli che vengono fatti al sud. Cioè, allora poi hanno ragione gli artigiani che lei rappresenta, i commercianti che lei rappresenta del centro-nord, a dire: noi veniamo controllati in tutto, al sud e non c'è lo scontrino e le indagini di settore. Insomma, no, o per paura, o per così fan tutti, o per connivenza, o per commistione, però il dato di fatto poi è quello. Ecco, però la nostra analisi, ci terrei a precisarlo, non è di tipo normativo, cioè non è su come bisogna comportarsi, ma è su come ci si comporta. E c'è evidenza empirica, scientifica, internazionale, sul fatto che la cosiddetta compliance, cioè la propensione a comportarsi bene, purtroppo dipende anche da quello che percepisci in termini di servizi pubblici. È così, non è giusto, ma è così. La terza cosa da cui dipende l'evasione fiscale è la complessità del sistema burocratico, e anche questa complessità, cioè dal costo dell'adempimento dell'obbligazione fiscale. E anche in questo caso il Sud sta messo peggio. Dopodiché dipende anche dalla quarta componente comportamentale, che è la pretesa fiscale, cioè l'incentivo a evadere. Maggiore la richiesta in termini di imposte, cioè maggiore sono le aliquote legali, per esempio a livello locale, e maggiore è la propensione a evadere. Sono ragionamenti quindi estremamente semplici, estremamente logici, funzionano anche dal punto di vista, diciamo, tecnico, economico, e quindi abbiamo detto, come diceva lei prima, tutte le regioni avessero questi parametri ai livelli della regione migliore, quanto gettito si potrebbe recuperare? 44 miliardi, 43 miliardi. È chiaro che questa è fantascienza se la vediamo come una ipotesi operativa da realizzare domani. Ma se invece ci rendiamo conto che dobbiamo passare da un contrasto, come dire, di piccolo cabotaggio all'evasione fiscale a quella che si chiama emersione di massa, cioè un cambio di paradigma in termini culturali, in termini di servizi pubblici, in termini di maggiori controlli, in termini di riduzione della pressione legale, allora diventa una cosa possibile. Ma attenzione, questo recupero di 42 miliardi rotti è un recupero in termini di migrazione dall'area dell'evasione all'area dei contribuenti in regola, perché sennò non è che possiamo immaginare di recuperare tutto questo gap, che in totale vista ci dice di essere 115 miliardi, in termini di 115 miliardi di maggiori imposte, no? Perché sennò non esiste, allora, un equilibrio macroeconomico possibile. Un attimo, Bella, perché vedo molti messaggi. Allora, Bella l'ha chiarito molto bene: c'è un problema di cultura e di adeguamento alle norme. Quindi qualcuno mi scrive: le cinture di sicurezza al sud, nessuno porta i caschi. Ho capito, c'è un problema culturale, e quello non ci sono giustificazioni. Tra l'altro è dimostrato che più tu hai un comportamento da questo punto di vista culturalmente corretto, più ne beneficia la collettività intera. Breaking news. Soddisfazioni azzurre da Budapest, dove c'è stata una vera e propria impresa di Federica Pellegrini ai mondiali di nuoto. L'olimpionica ha vinto l'oro nei 200 stile libero. Ne parliamo tra pochissimo in GR24 alle 18. Oh, Bella, mi scusi, hanno interrotto con la breaking news della redazione. Bella notizia, la Pellegrini che prende l'oro. Non c'è solo l'evasione, per fortuna. Allora, quindi, rispondendo agli ascoltatori, uno, è sicuramente un problema di atteggiamenti culturali, di rispetto della cosa pubblica, delle norme e quant'altro. Tra l'altro è dimostrato che più un paese è civico, se vogliamo, meglio vive. È una balla che se io mi faccio i fatti miei, parcheggio dove voglio, non rispetto la regola, poi vivo meglio. Vivi peggio, vivi in un altro modo che non voglio dire, non voglio usare parolacce, che è esattamente quello che succede, perché poi una volta sei tu a fare il furbo e la volta dopo sono gli altri a fare i furbi con te. Quello che non si capisce delle volte al sud e non solo al sud, che sembra quasi vabbè, ma intanto in questo modo no, perché poi non hai servizi, c'è un tasso di criminalità più alto e via così. Poi c'è però anche, bella l'ultima domanda che ho per lei, la qualità del lavoro. Mi spiego. È chiaro che al nord tu hai molte imprese e hai molti dipendenti delle imprese dove c'era trattenuto in busta paga. Se al sud abbiamo più lavori occasionali, si rischia di sconfinare più nel nero, lavori stagionali. L'altro elemento che però non mi spiego, se l'incidenza del pubblico impiego al sud è più alta rispetto al nord, dovremmo vedere però almeno lì un'evasione minore, no? Eh sì, però poi ci sono i secondi lavori in cui l'evasione è al 100%. Molto spesso si fa confusione dicendo che i lavoratori dipendenti non evadono. È il lavoro dipendente che non evade. Ma se poi io come pensionato, sulla pensione non evado, faccio integro il mio reddito, che ne so, con un 50% in più e non dichiaro niente, mediamente questo tasso di evasione del lavoratore, del pensionato, diventa superiore. Io volevo dire una cosa, il suo ascoltatore che parlava dei cinturi di sicurezza e dice una cosa corretta, cioè che bisogna partire dalle piccole cose per migliorare il capitale sociale, no? Cioè, se c'è un contrasto serio, efficace, come c'è in molte aree del paese, sui piccoli comportamenti scorretti, poi ci sarà anche un miglioramento in termini anche di ciclo vitale. Ma infatti ci sarà un miglioramento complessivo, certo. Ma io infatti lo dico anche a chi mi scrive dal nostro sud, che frequento e conosco abbastanza bene, penso. Guardate che il problema non è sempre dalla colpa all'arbitro, al campo da gioco, allo Stato, a Roma, alla Regione. I politici e la classe, diciamo, che dirigenziale del sud ha mille lacune, per carità, ma iniziate voi ad adottare comportamenti corretti, sennò è sempre il benaltrismo. Non è possibile che quando io vado e ci vado spesso noti una differenza enorme tra il rispetto delle cose più basilari, non è solo la cintura, anche il parcheggio sugli handicappati, no? Cioè, questa è un segno di civiltà, non c'entra Roma, lo Stato, il colonialismo piemontese, come dicono storici improvvisati del sud, per carità, a quasi a giustificare sempre, per cui non è così. Iniziate a rispettare le regole e le leggi, così intanto la persona con un handicap potrà parcheggiare, intanto non vedremo gli abusi che raccontiamo nella classifica del venerdì sulla 104, che è una legge sacrosanta ed è vigliacco che ne abusa. Collocati anche soprattutto al sud, iniziate a mettere via la cintura e essere, capito? E poi si può chiedere lentamente, tutto migliorerà lentamente, o io mi auguro anche non così lentamente, che se qualcuno mi parla dei neoborbonici lo mando a quel paese, grazie intanto, ma qualcuno mi scrive come neoborbonico, non so cosa sia un neoborbonico, non mi interessa, non interessa neanche a Franceschiello. Grazie Mariano Bella, direttore del Centro Studi di Confcommercio. Andiamo sul traffico. Welcome Italia, i migliori servizi di telecomunicazione per la vostra impresa. Vi presenta Focus Economia. Dunque, mi scrive un ascoltatore... Il primo passo di buon esempio lo faccia lo Stato. No, lo faccia lei. Lo Stato poi è criticabile per mille cose, e ci sono anche tanti casi virtuosi, ma lo faccia lei. Io non ci credo che mi dice il primo passo lo deve fare lo Stato, poi lo faccio io. Inizia a parcheggiare bene tu, a pagare il canone, a pagare quello che devi pagare, e poi puoi criticare. E basta, no? Anche perché, ripeto, quelle collettività vivono poi una vita più difficile, una vita peggiore rispetto a collettività in cui tutti rispettano l'altro. È così difficile da capire. Si deve insegnare anche ai figli. No, la furbizia elevata a valore. La furbizia lascia le regioni del Mezzogiorno in condizioni, diciamo. Va bene. L'educazione a danno dei genitori, sono d'accordissimo. Nel frattempo la borsa, ma la borsa oggi per me vuol dire soprattutto la vicenda Fincantieri, è una giornata abbastanza tranquilla per quello che riguarda il resto del mercato. Ferrari più 4,16%, STMicroelectronics più 2, A2A più 2, Saipem più 2, Campari più 1,60, Prysmian più 1,5, Enel più 1,20%, Milano guadagna alla fine assolutamente in linea con le altre borse, dicevamo più 0,50% come Parigi, più 0,30% Francoforte, più 0,20% Londra. Da questo punto di vista, al di là della vicenda Saint-Nazaire, oggi Wall Street ha riaggiornato anche nuovi massimi storici con Dow Jones e Nasdaq per le trimestrali che ricordavamo in apertura. Da noi bene i risultati di ST Microelectronics, ricavi più 13%, utile netto 260 milioni di dollari. Il titolo, il mercato apprezza, il titolo cresce del 2%. Domani arriverà, ci sarà il consiglio di amministrazione di Telecom Italia, il rinnovo dei vertici a inizio agosto. Il titolo comunque va bene oggi, più 1%. Campari bene anch'essa, più 1,60, ha venduto due marchi e adesso si sta concentrando sull'operazione di acquisizione di Grand Marnier. Non c'è nessun motivo, abbiamo visto, su Ferrari. E poi invece Molmed bene, ha fatto un accordo in esclusiva con Don Pepe, la distribuzione del farmaco. Andiamo sui titoli di un nuovo farmaco, sui titoli più sottili. E invece tra i titoli che oggi hanno perso, Ubibanca meno 1, Luxottica meno 0,95, ma soprattutto andando sui peggiori in assoluto, faccio notare che il peggior titolo oggi è Fincantieri, che per il tema che stiamo per iniziare ad affrontare ha perso l'8,70%, male anche Poligrafici Editoriali meno 7, Lucigiano Media Group meno 6,20. Bene invece Novare più 49, Industria Innovazione più 13, Diasori in più 4,94%. Ha perso per questo voltafaccia francese, cambio delle carte nonostante gli accordi, non so come chiamarlo, insomma. Macron si sta rivelando a essere un presidente francese che fa solo ed esclusivamente gli interessi della Francia e, se posso permettermi, li fa anche in maniera non così corretta, se vogliamo, al di là della sembianza. Non è che uno sia magro, bello, giovane o grasso, brutto e anziano, non me ne frega niente, è importante come ti comporti, e si sta comportando da furbetto. Andiamo a parlare del perché. Abbiamo ripercorso all'inizio un accordo di aprile, Fincantieri che ottiene il 66,6% messo all'asta dai sudcoreani della società francese Estex France, Francia, che ha i cantieri di Saint-Nazaire. Stiamo parlando di cantieristica, vale un quarto di Fincantieri. Fincantieri la ritiene sinergica perché ha un bacino di carenaggio lungo quasi un chilometro dove si costruiscono navi da crociera di stazza superiore a quelle che può costruire Monfalcone, 220.000 tonnellate contro 180.000. Arrivo là, l'accordo viene firmato ai massimi livelli, presidente del Consiglio italiano, presidente francese François Hollande, ad aprile. Era Seul che voleva vendere la quota, non era in mano francese, lo Stato aveva solo il 33,3%. Tutto, poi bisogna rimettere un po' in discussione l'accordo, si vuole far entrare anche Fondazione CR Trieste, va bene. Arriva Macron, che al di là di quello che sta facendo con la Libia, non so, rimette in discussione tutto, e il ministro dell'economia Bruno Le Maire dice aspettiamo la risposta del governo italiano sulla proposta di un azionariato diviso a metà tra Italia e Francia. Chiaro, se ho ben capito, e chiedo a Celestina Dominelli la conferma, che l'Italia dice no a mettere i soldi se non c'è qualcuno che decide, cioè 50-50, non sei azionista di maggioranza e nel consiglio di amministrazione non hai sostanzialmente il voto decisivo. Celestina, buonasera. Sì, buonasera a te, buonasera ai radioascoltatori. Sì, esattamente è questo, diciamo, il senso della risposta del governo italiano. Lo avevano fatto filtrare ieri sia Padoa sia il ministro dello sviluppo economico Carlo Calenda, quando c'era stato, diciamo, una prima proposta da parte di Le Maire che appunto suggeriva uno schema alla pari, insomma, tra Francia e Italia per il controllo di SFX France. Oggi, dopo il nuovo ultimatum del ministro francese, Padoan ha diffuso un comunicato in cui si dice rammaricato del fatto che la Francia possa esercitare il suo diritto di prelazione, ma soprattutto ribadisce quello che tu dicevi poc'anzi, cioè che non c'è il motivo per cui Fincantieri debba rinunciare alla maggioranza e al controllo della società. Quindi allo stato attuale non c'è assolutamente possibilità di accordo. La proposta di Parigi viene considerata irricevibile dal governo italiano. E infatti anche Calenda ha detto, il ministro Calenda su Estex, siamo stati chiari fin dal principio, il precedente governo francese ha chiesto a Fincantieri di interessarsi. Erano infatti i sudcoreani che l'ha messa in vendita. Fincantieri lo ha fatto con un progetto industriale solido che ha alcune condizioni fondamentali, conosciute e approvate dal precedente governo francese, che ha firmato un accordo, e anche dall'attuale. Dopo il GR24 vorrei sapere, Celestina, intanto se ci sono delle penali per un cambio di direzione così forte, visto che il 29 luglio è il termine ultimo con cui il governo francese può esercitare il diritto di prelazione, e poi perché questa retromarcia, questo cambio di rotta di Macron, che cosa teme? Dopo il GR24 349 238 6666 per SMS e WhatsApp. Il segnale orario vi è offerto da... Cosa ti preparo? La tavola. Prendo le pizze Roncadin. Pizze Roncadin, nel banco freezer. Ma cos'è quest'estate? Semplice. L'appuntamento estivo con l'attualità di Radio 24. Le storie di cronaca più importanti, i numeri di un'Italia in continuo cambiamento e un po' di leggerezza sotto l'ombrellone. Ma cos'è quest'estate? Con Elisabetta Fiorito, Roberta Giordano e Deborah Rosciani. Dal 31 luglio alle 8 su Radio 24. Focus Economia. E 8 minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Dunque, Celestina Dominelli, perché il governo francese ha cambiato idea facendo questa retromarcia? Esistono penali o in alternativa come potrebbe chiudersi la vicenda? Beh, allora, comincio a rispondersi dalla prima delle due domande. Perché cosa ha cambiato opinione? Ma diciamo che Emmanuel Macron, che si era definito insomma un liberista in campagna elettorale, che peraltro non aveva mai parlato della nazionalizzazione dei cantieri di Saint-Nazaire, insomma, che invece era uno dei punti della sua avversaria di Marine Le Pen, si sta dimostrando per la verità molto dirigista e sicuramente deciso a difendere, diciamo, gli interessi strategici del paese. Probabilmente in questa fase è un presidente indebolito che ha visto crollare moltissimo il suo consenso elettorale nel giro di pochissimi mesi e quindi sta evidentemente cercando di recuperare terreno. Forse vale anche la pena ricordare che la decisione di rimettere in discussione quegli accordi fu lanciata proprio dai cantieri. Macron arrivò a fine maggio a Saint-Nazaire pochi giorni dopo il suo insediamento e lì subì una grossissima pressione e da parte del territorio e da parte dei sindacati preoccupati, insomma, che potessero essere espropriate le competenze di quei cantieri affacciati sulla Loira. Quindi evidentemente c'è attorno all'Eliseo una fortissima pressione rispetto sì, alla quello quale... che non capisco, però, per citare Bono, il numero uno di Fincantieri, ma non è che Fincantieri valga meno dei sudcoreani? Cioè, qui stiamo parlando come se vi fosse un tentativo di scalato, di acquisizione di dei cantieri in mano a tutti i francesi. Il 66% era in mano ai sudcoreani, neanche europei, che l'ha messo in vendita. Ecco, come si fa a sostenere adesso che vadano rinazionalizzati? Beh, forse insomma, è utile ricordare ai nostri radioascoltatori che è la seconda volta che i francesi dimostrano di non gradire gli italiani, perché è vero che Macron sta rimettendo in discussione gli accordi sottoscritti durante la presidenza Hollande, però forse bisogna ricordare che anche 10 anni fa, quando i sudcoreani divennero proprietari di STX, anche allora Bon aveva provato a prendersi quei cantieri e anche allora i francesi decisero di, come dire, accordare una corsia preferenziale alla holding sudcoreana e di mettere da parte gli italiani. Credo che ci sia un problema, forse anche detto molto chiaramente, di temere appunto di dare un grossissimo vantaggio all'Italia, perché è vero che acquisendo Saint-Nazaire Fincantieri diventerebbe la leader incontrastata. Sì, ma tanto Saint-Nazaire vale un quarto, nana è, nana resta. Allora, Jean-Paul Fitoussi, professore all'Istituto di Studi Politici di Parigi, alla Louis, buonasera. Buonasera. La domanda per lei non è di carattere tecnico, professore, sui cantieri di Saint-Nazaire o sulla Fincantieri, è su Macron. Come diceva giustamente Celestina Dominelli, in campagna elettorale lui è stato un strenuo difensore del libero mercato, dell'Europa, dell'integrazione europea. Adesso che governa, insomma, rimette in discussione quanto firmato da Hollande. Tra l'altro, non, ripeto, non capisco perché andassero meglio i sudcoreani degli italiani, e cosa ci sia di male in un'operazione di un gruppo come Fincantieri, che è uno dei più grandi costruttori cantieristici al mondo. Non è che Macron ha cambiato rotta e sta diventando solo nazionalista e molto molto poco europeista? Non lo credo da tutto, perché questa mossa di Macron è fatta con la Merkel, perché i due hanno detto che bisogna non essere ingenui consentire la vendita di asset nazionali solamente se c'è la reciprocità. E dov'è che non c'è reciprocità? No. No, purtroppo lei ha ragione. Il problema è che su questo affare io credo che il governo Macron si sbaglia, perché ci sono tante imprese francesi in Italia che non capisco che fanno queste difficoltà. Beh, gliene cito una: Vivendi si è comprata la quota di maggioranza di Telecom Italia. Lo so, ha fatto una scalata ostile, ha fatto un'opera ostile, è un'operazione ostile, non una scalata su BNP Paribas, su BNL. Ci sono tutti i marchi del lusso andati o a Pinot o a Arnaud. C'è Vivendi che ha rotto un accordo con Mediaset per poi comprarsi le azioni e arrivare al 29%, poi adesso bloccata dall'autority. Insomma, la reciprocità casomai dovremmo chiederla noi, Fitoussi, nei confronti della Francia. Esatto, è la ragione perché io credo che lui si sbaglia. E poi un europeo non è come un coreano, è uno che abita la stessa casa, che vive nella stessa casa. Sì, tra l'altro, con l'accordo... Non capisco veramente che c'è dietro questo. Forse c'è dietro un po' di demagogia, forse c'è dietro un po' di rimpianto che le prime misure prese dal governo Macron erano delle misure considerate contro i poveri. Dunque, per essere i campioni dell'occupazione, vogliono dire che no, come un asset strategico, loro vogliono avere la metà. Ma metà non si può gestire un'impresa con due teste, no? È un po' difficile di capire che c'è dietro, perché Fincantieri è veramente l'impresa adatta per comprare STX. Sì, tra l'altro lo Stato francese resterebbe, nessuno ha messo in discussione la quota del 33,3%, esatto, nel senso, dunque, non è che stiamo dicendo al 100% di Fincantieri. Avrebbe un potere forte, dunque la verità non capisco. Dico, è un errore perché ci sono altre battaglie a condurre. Per esempio, guarda, si vende al Qatar, si vende Paris Saint-Germain e non si vende a Fincantieri un cantiere navale. È una cosa strepitosa, no? Sì, oddio, è chiaro che Paris Saint-Germain è l'importantissima squadra di calcio francese. E qui c'è anche un problema di rispetto degli accordi presi. Una cosa, Celestina Dominali, per concludere, ma non ci sono delle penali in questi casi? Ma dipende dal caso, ma queste cose vengono discusse tra governi. Ma infatti l'accordo della politica... Il governo italiano deve avere un atteggiamento molto forte. Non accettare. Devo dire che la posizione del ministro Padoan e soprattutto del ministro Calenda, che ha detto se su STX siamo stati chiari fin dal principio, il precedente governo francese ha chiesto a Fincantieri di interessarsi, Fincantieri lo ha fatto con un progetto industriale solido che ha alcune condizioni fondamentali, queste condizioni sono conosciute dal governo francese, dal precedente che ha firmato un accordo e dall'attuale, non abbiamo nessuna intenzione di andare avanti se queste condizioni non ci sono. E le condizioni sono di avere la maggioranza, nel senso di poter avere la maggioranza di azioni ed esercitare soprattutto il voto decisivo nel Consiglio di amministrazione in caso di stallo. Celestina Dominelli, ma penali, cioè, è chiaro che l'accordo era politico, ma in questo caso uno può farlo saltare senza nessuna ripercussione? Ma sì, guarda, perché loro di fatto eserciterebbero una possibilità che gli viene concessa dagli accordi che hanno siglato con i sudcoreani. Sostanzialmente quegli accordi stabilivano che una volta individuato un nuovo venditore avrebbero avuto 60 giorni di tempo per esercitare la prelazione, cioè per evidentemente rilevare la quota messa in vendita. Quei 60 giorni vanno a scadenza il 29, quindi sabato, per cui loro stanno avvalendoci una facoltà. C'è sicuramente una questione reputazionale, come ricordava prima il professor Fitoussi, visto questo cambio diciamo di rotta da parte di Macron, ma non, insomma, al momento non ci sono le condizioni per applicare le penali. C'è poi senz'altro un tema di danno per Fincantieri, che soltanto oggi, lo ricordavi tu prima, ha chiuso con una, insomma, perdita dell'8,6%, ma insomma, è arrivata anche a perdere il 13% nel corso della giornata, quindi sicuramente in queste settimane di tira e molla, insomma, qualcosa sul terreno l'ha lasciata. No, poi sarebbe interessante sapere come eventualmente Macron e il suo ministro Le Maire potrebbero giustificare l'esborso di soldi ai contribuenti francesi per nazionalizzare un gruppo che era stato messo in vendita, che ripeto ha 1 miliardo di fatturato, ha 7.000 addetti, ma insomma c'era stato messo in vendita perché evidentemente così bene non andava. Adesso spendere per rinazionalizzarlo in un paese normale, si chiederebbe conto al governo perché usi i soldi dei contribuenti per... Se no potremmo fare la stessa operazione anche noi, non dico su Telecom, se no viene giù il mondo, ma insomma in altri versanti. Grazie, staremo a vedere come si chiuderà la vicenda. Devo dire che la posizione chiesta da Fitoussi al governo italiano oggi, almeno quella arrivata, ripeto, sia per voce del ministro Padoan, che ha detto l'attuale esecutivo francese ha deciso di cancellare accordi già presi, questa è la nota del ministro, abbiamo dato la nostra disponibilità ad ascoltare le esigenze del nuovo governo, ma non c'è nessun motivo per cui Fincantieri debba rinunciare alla maggioranza e al controllo della società francese. E quindi piena sintonia almeno su questo tra, no, c'è spesso, ma dico almeno c'è piena sintonia sul tema Fincantieri tra Calenda e Padoan. Grazie a Celestina Dominelli, grazie a Jean-Paul Fitoussi. Andiamo sul traffico. Dimentica i compromessi, scegli di avere tutto con Lexus CT Hybrid Icon. Vi presenta Focus Economia. I have a dream that one day on the red within our mandate, the ECB is ready to do whatever it takes to preserve the euro. And believe me, it will be enough. Within our mandate, the ECB is ready to do whatever it takes to preserve the euro. And believe me, it will be enough. Within our mandate, the ECB is ready to do whatever it takes to preserve the euro. And believe me, it will be enough. Oh, non sarebbe male mixarlo, eh? Questo era Mario Draghi 5 anni fa, quando ha salvato l'euro, punto e basta, visto così le polemiche di inizio programma. La frase che è diventata un mito, whatever it takes, tutto quella Banca Centrale Europea è pronta a fare tutto il necessario per salvare l'euro e credetemi sarà sufficiente. Lo spread stava 5 anni fa a 520 punti. Quel giorno, ricordiamo cos'era successo, l'ho fatto in apertura, la Germania aveva detto con grande lungimiranza febbraio-marzo, non è detto che tutti i paesi debbano stare nell'area euro, e quindi parte la speculazione sulla Grecia, spread che va oltre 1000 punti, poi giustamente gli speculatori che guadagnano tuttora poco visti i tassi di interesse bassi dicono: ma dov'è che possiamo mettere tutta questa massa di liquidità? Beh, possiamo scommettere anche sul Portogallo, visto che la Germania continua a dire che non è detto che tutti i paesi stiano nell'euro, come se decidesse lei. E infatti parte lo spread anche del Portogallo, poi uno dice: beh, dov'è che c'è tanto, un po' più di ciccia? C'è sulla Spagna, e parte anche l'attacco speculativo al fatto se la Spagna resterà o no nell'euro, e infine si va al pesce grosso, al big fish, come dicono gli inglesi, l'Italia, col debito che ha, è tutto grasso che cola per la speculazione. Il nostro spread arriva a 520, dicevo, quel giorno. Dopo le parole di Draghi chiude a 470, cioè perde 50 punti in un sol giorno. Attualmente è a 150 punti grazie anche alla politica di Draghi sull'euro, sul quantitative easing, sui tassi di interesse, e soprattutto, e giro la domanda all'economista Francesco Daveri, che insegna politica economica alla Cattolica di Piacenza. Buonasera Daveri. Buonasera. Grazie soprattutto alla frase: faremo tutto il necessario, cioè chi vuole speculare sulla fine dell'euro si mette contro la Banca Centrale Europea. Uno ha scritto: magnifico, supremo Draghi. Io faccio notare che le borse capitalizzano adesso il doppio rispetto a 5 anni fa, il valore degli asset azionari è cresciuto di 5.000 miliardi di euro, la Grecia è tornata sui mercati e gli obbligazioni spagnole e italiane rendono pochissimo, in alcuni casi vanno sotto zero. È stato immenso Draghi, come scrivono alcuni ascoltatori? Cioè l'unico leader politico fatto in un'Europa fatta di miopi? Ma è stato sicuramente un annuncio che ha avuto un successo, credo, senza precedenti, perché sono bastate le parole, questa è stata la cosa. Cioè il grande successo dell'annuncio è stato che era un impegno che non fissava limiti, e che faceva capire a mercati molto nervosi per tutte le ragioni che ha appena elencato che la Banca Centrale Europea sarebbe stata lì di fronte a ogni contingenza che si fosse manifestata, e molto più efficace di qualsiasi piano specifico annunciato quello stesso giorno. Cioè avesse detto: farò il quantitative easing del tipo che, non so, ha cominciato a attuare nel marzo 2015, sarebbe stato molto meno efficace, perché i tedeschi avrebbero votato subito contro quel giorno lì, o perlomeno nella prima riunione del comitato esecutivo successivo. Invece, con un impegno che era non precisato dal punto di vista né degli strumenti, poi naturalmente la cosa che tranquillizzava un po' i tedeschi era la frasetta iniziale, within our mandate, cioè all'interno del nostro mandato. Il mandato della Banca Centrale Europea è preoccuparsi che l'inflazione rimanga al di sotto del 2%, che però non sia di tanto sotto questo 2%, vuol dire preoccuparsi della stabilità dei prezzi, e preoccuparsi anche che la politica monetaria, cioè che il tasso di interesse che fissa la BCE, si sparga, si diffonda in giro per l'Europa più o meno a quel livello lì, quindi vuol dire anche preoccuparsi degli spread e far scendere gli spread. Quindi tutte queste cose erano un po' contenute in quelle poche parole, senza prendere troppi impegni precisi, anzi nessun impegno preciso, e questo è stato il grande successo di Draghi. Se qualcuno volesse la dimostrazione del significato, cosa significhi moral suasion, beh, questo mi sembra davvero che siamo al massimo. Nel senso che solo le parole di Draghi hanno bloccato la speculazione contro l'euro. Qualcuno mi dice: sì, ma la disoccupazione nel frattempo, purtroppo la Banca Centrale Europea non ha lo stesso mandato della Federal Reserve, della Banca Centrale Americana, che si deve occupare anche dell'occupazione e dell'economia in generale, ha un mandato tedesco con la sindrome di Weimar, l'unica cosa che preoccupa è l'inflazione, anche quando l'inflazione non c'è, per cui davvero è difficile imputare a Draghi l'assenza di politiche interne proattive, anticicliche, per far ripartire l'economia. Lì bisognava contrattarle a Bruxelles, non a Francoforte. Beh, da un lato sì, cioè è più importante la politica fiscale forse piuttosto che non la politica monetaria, o certamente, cioè, la politica monetaria da i bilanci degli stati, il bilancio dei singoli stati, su cui c'è il guardiano di Bruxelles, che però per tanto tempo ha guardato più all'attenzione dei saldi e dell'algebra piuttosto che non invece a miscelare un po' gli stimoli dove potevano servire e magari inducendo quelli che potevano farli a farli, tipo i tedeschi, e invece magari continuando a vigilare su paesi che erano vicini in effetti al default per una fase molto, molto rilevante in questo periodo, come anche l'Italia per una parte è stata. Però la politica monetaria in Europa in effetti, come diceva giustamente, non obbedisce allo stesso mandato della Federal Reserve. La Federal Reserve ha dietro comunque uno Stato che oltretutto sono gli Stati Uniti d'America, invece certe volte Draghi si gira e vede dietro a sé un po' troppa gente o nessuno, insomma, e quindi questo è una cosa che implica che poi la BCE deve stare veramente strettamente alle parole del suo mandato, che dicono appunto di mirare alla stabilità monetaria prima di tutto. E ha avuto buon gioco Draghi con un'inflazione così bassa. Qualcuno mi dice, dopo Draghi, a parte che è 2019, e soprattutto non ci voglio pensare, a maggior ragione se arriva Weidmann, e qua mi fermo perché oggi, diciamo, tra Francia e Germania abbiamo dato. Grazie a Francesco Daveri, docente di politica economica, da Sebastiano Berisoni l'auguro di una buona serata. Noi ci risentiamo domani dalle 17 in poi. Radio 24, libera la voglia di fare.